Filiberto Zovico, secondo anno di questo festival che continuiamo a chiamare festival, che però va oltre. Voi avete voluto fare anche una cosa molto simbolica, un premio a delle aziende o persone o quant'altro che non sia un premio a dei brand. Sì, il nord-est, come la maggior parte del paese, è fatto di piccole, piccolissime e medie imprese, che sono il tessuto reale di questa economia. E sono quelle che in questa fase, pur difficile, trainano, come dire, la possibile ripresa. Abbiamo voluto fare un premio, premiando per ogni città sede del festival 10 di queste imprese, proprio per raccontare all'esterno come ci siano personalità piccole e medie imprese che vincono la crisi e lo vincono attraverso l'innovazione. La cosa che ci ha più colpito è che quando abbiamo fatto il bando pensavamo di fare fatica a trovare 10 imprese per ogni provincia che abbiamo coinvolto, e invece siamo stati sommersi da imprese che hanno dati positivi. È un messaggio anche di speranza, ma è anche per raccontare un tessuto economico reale in cui molte imprese, molti giovani si danno da fare per cercare di posizionarsi al meglio per quando la crisi sarà finita. Cambio quindi sono, quindi non è uno slogan per il futuro, è uno slogan che già esiste. Cambio quindi sono, che sta dietro a innovare per vincere la crisi, significa appunto che oggi è il momento di cambiare per essere. Questa è una terra, il nord-est, che cambia continuamente, ha questo grande vantaggio, è un territorio che ha questa vocazione a cambiare continuamente, ed è questo che gli permette, come dire, probabilmente di reggere sia i successi del passato sia quelli che ci auguriamo per il futuro. E nel festival racconteremo queste storie e ci confronteremo per capire anche noi a nostra volta meglio come cambiare per essere.